24 mattino. Todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. Sunday Bloody Sunday, come cantavano gli U2, ed era sempre una domenica di sangue, molto più sangue. Per fortuna non è stata così drammatica la domenica in Catalogna, ed era sempre il tema dell'identità in quel caso dell'Irlanda. E allora era la voce di Mariano Rajoy nel suo messaggio, il suo appello alla nazione: siamo sull'orlo della secessione. Tutti i giornali aprono quasi su questo, vi ripeto, una strage oscurata, quella di Marsiglia, però anche noi dovremo privilegiare in questa rassegna stampa straordinaria quello che sta accadendo, per un motivo molto semplice: la regola di ingaggio, perché quello che accade su questa secessione sarà la chiave per capire cosa accadrà a tutti gli altri stati europei, tutti i piccoli nazionalismi che friggono sotto la fragile copertura dell'Europa. Allora inizio con i titoli. Il Messaggero, Catalogna, strappo nel caos. Libero, con una presa di posizione molto netta: catalani massacrati, vogliono la libertà. Il Giornale, pensate, apre, ma questo è interessante anche per capire la Catalogna, sugli scontri al G7 di Torino: delinquenti a 5 stelle. E poi una posizione più cauta sulla Catalogna. La Catalogna sceglie la secessione, ma è guerra civile. Più di 800 feriti. Interessante anche il titolo del giorno: Catalogna, guerriglia civile. Non guerra civile, ma guerriglia civile. Poi una notizia che interessa anche noi Corradi: dormire 4-5 ore a notte basta a ricaricarsi. Non so come si... Basta, non serve altro. Ma tu come funzioni la mattina? Dalle 4 e mezzo cominciano le trattative, alle 5 e mezzo sveglio, in maniera irreversibile. Le trattative con chi? Con la sveglia, comincio a capire che il mondo esiste e poi basta, a quel punto. Ma da sempre? Il Tempo, con un'apertura diversa: in Italia 9 kamikaze dell'ISIS, allarmi attentati, informativa riservata dell'antiterrorismo, questo lo leggeremo, ancora sangue, 2 vittime a Marsiglia, 5 feriti in Canada, sì, perché anche in Canada è arrivato l'integralismo. Pensate, sul Tempo proprio non c'è quello che è successo in Catalogna. Il Foglio, guerra di indipendenza pop, però sapete che quello del lunedì non immaginavano quanto questo titolo sarebbe suonato stridente stamattina. La Stampa, l'urlo di Barcellona, addio Spagna, addio. La polizia in Madrid irrompe nei seggi e usa proiettili di gomma sugli elettori, 800 feriti. L'editoriale di Stefanini, il colpevole silenzio dell'Europa. Poi Corriere della Sera e Repubblica, che hanno tenuto, questo è il bello di chi fa la rassegna, sentiment diversi, perché il Corriere della Sera titola "Violenza in Catalogna, voto nel caos", ma ha un'impostazione molto a favore dello Stato centrale: scontri e barricate ai seggi, centinaia di feriti, sparati proiettili di gomma, la polizia locale si ribella, questa è una cosa diversa, i famosi mossos de squadra. Repubblica, Catalogna, la polizia contro i votanti, sì all'indipendenza, e Madrid dice è illegale, gli agenti rompono i seggi, oltre 840 feriti, Barcellona, ecco vedete, questo è il passaggio successivo, domani sciopero generale, intervenga l'Unione Europea, l'analisi hanno perso tutti, inclusa l'Europa, e dentro, lo leggerò fra un istante, il pezzone di Concita De Gregorio che racconta dal punto di vista del governatore della Catalogna che cosa quella giornata è incredibile. Sapete che c'è stata una caccia per trovarlo, perché uno degli obiettivi del governo, caro Roberto, era impedirgli di votare. Sì. E hanno sequestrato, cioè, una delle prime immagini che è arrivata, il suo seggio, e poi lo hanno inseguito perché lui voleva votare in un altro seggio. Allora Concita Del Goglio spiega come ha fatto, e inizio subito da qua, pagina 3. Ho sempre un elicottero sopra di me, mi localizzano, racconta il governatore della Catalogna, Puigdemont, mi localizzano attraverso il telefonino, il mio o quello di mia moglie. Allora abbiamo dato appuntamento nel punto A, la palestra di San Giulià, ci siamo diretti nel punto B, una scuola a pochi chilometri, ci siamo fermati sotto un cavalcavia dell'autostrada, abbiamo lasciato i telefoni nell'auto che abbiamo rimandato a casa con un altro autista, siamo saliti su una macchina anonima e siamo andati nel terzo seggio a Cornellà. L'elicottero e la polizia hanno seguito i telefonini abbandonati nella macchina. Non ci creda, giocare al gatto al topo non mi piace. Hanno votato il presidente e la moglie alle 9:30, quando nella palestra di San Giulià, il punto A, 20 camionette avevano già scaricato sul falso obiettivo centinaia di agenti. E queste sono le piccole intelligenze, le piccole invenzioni che poi cambiano la storia, caro Roberto. Tu sei monitorato. Ma io mi domando questo, è una speculazione del tutto gratuita. Se per caso un giorno la Catalogna poi ottenesse questa autonomia, ma ricadrebbe comunque sotto il re, oppure sarebbe un'indipendenza assoluta, cioè anche una repubblica che non ha più a che vedere? Bella domanda, ma nessuno ha la risposta, perché stiamo camminando, e questo è importante, per la prima volta in un terreno sconosciuto. Allora, primi messaggi. Telese col punto esclamativo: sai benissimo che il referendum catalano è farlocco. Ieri vedevo molti catalani in piazza col pugno comunista in odore di antifranchismo, quindi è chiara la strumentalizzazione dei sinistros. Allora, qui la politica non c'entra nulla. È una grande decisione su cosa debba fare l'Europa, però ti informo che io personalmente ho forti dubbi, e li spiegheremo nei cani e nei gatti perché Oscar ha un'opinione totalmente diversa, ho forti dubbi sulla legittimità di questo referendum. Quindi, malgrado la differenza, sono esattamente d'accordo con te. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e torniamo subito dopo con la seconda parte in cui vi racconterò che cosa è successo. Roberto? Buona pubblicità. Ventiquattro mattino. E allora, una domenica di sangue. Buongiorno, Luca Telese con Roberto Corradi al suo fianco, Radio 24, 24 mattino. E raccontiamo, stavamo iniziando a leggere il pezzo di Concita De Gregorio su Repubblica. Ora negoziare è impossibile, Puigdemont nel giorno del giudizio. Ora sono le 6 del mattino, tutto deve ancora succedere, e la giornata che cambia la Spagna ha un uomo che lo fa. Se mi avessero detto che questo sarebbe stato il mio destino, non so, francamente non so se sarei qui adesso, ma ci sono e devo. Carlos, il presidente della Generalitat, è un cattolico di centro, pacifista, moderato, ex giornalista pubblicista, sì, perché poi non li raccontiamo mai i protagonisti, in un giornale locale, poi sindaco della sua città, Girona, che sta a Barcellona come Viterbo può stare a Roma. Sua moglie è Marcela Topor, pure giornalista, è rumena, hanno due bambine di 10 e di 7 anni, vivono in un appartamento di un paese vicino a un campo da golf, il paese si chiama San Julià de Ramis. Piccolo, 6 chilometri da Girona, tutto comincia qui. Lo staff del presidente è convocato da Barcellona, appuntamento alle 6. Albeggia quando la sicurezza disegna su un foglio di carta il piano per sfuggire all'assalto della Guardia Civile. Piano A, B e C. L'obiettivo, votare a qualunque costo. 6 auto, di cui 5 civetta, ho sempre un elicottero sopra di me. Vi avevo raccontato il trucco del telefonino, non lo ripeto. Ma 20 camionette scaricano sul falso obiettivo centinaia di agenti, irruzione, si spaccano vetri, sgomberato con la forza le famiglie che cantavano l'inno catalanista con bimbi in spalla. Così Concita De Gregorio sulla Repubblica. Fine della spy story, inizio del viaggio del governatore verso Barcellona. È la giornata del destino. Allora, è interessante, vi racconti un dettaglio di quell'irruzione. Avete visto le immagini in televisione, non le posso far rivedere, però c'è un dettaglio che è importante per chi fa televisione. Quando entra la Guardia Civile, c'è un enorme Jimmy Jib, cioè un braccio con telecamera montato in questa palestra. Quindi i catalani non solo avevano creato una diversione mandando il governatore a votare in un'altra parte, ma hanno mandato la polizia in un set televisivo per creare quelle immagini drammatiche, avendo questo effetto del braccio che si alza e si abbassa. Hai capito, Roberto? È tutto televisivo, vedi, anche nella... È il mondo della guerra televisiva, come ci ha raccontato il nostro amico corrispondente del Mondo. Ancora le parole dell'uomo che ha in mano un pezzo del destino della storia europea: non vedono l'ora di arrestarci tutti, e forse lo faranno, ma hanno già perso, dice il presidente. Hanno mostrato al mondo la loro atavica pulsione autoritaria. Il partito di Rajoy, il feudo del nazionalismo spagnolo, ha questa radice, il machismo di stampo falangista, il culto della forza li ha spinti in un labirinto in cui pensano di averci vinti e non vedono che si sono perduti loro stessi. Un abbraccio al capo di gabinetto, un saluto ai mostos di squadra nel cortile, poi in ufficio, primo piano. Siamo in un labirinto, come si esce non lo so, io so solo ascoltare la gente, dialogare, accettare il risultato del voto. Ecco, ipotesi di scenario, il pezzo di Concilia di Gregorio è molto lungo, ma due cose sono molto importanti. Mia moglie mi ha detto, casomai chiama, tienimi aggiornata, ma il problema non sono io, non finisce con me questa storia. E lo scenario: è già sera quando il socialista Sanchez tardivamente parla, chiede a Rajoy di trattare, è poco, troppo poco. Dopo la prova di forza di oggi, indietro non si può tornare. I cittadini non capirebbero, dice il governatore della Catalogna. Non si tratta con chi spara, si va dritti all'indipendenza. In Plaza Catalunya migliaia di persone sono davanti a un maxi schermo quando alle 10:30 di sera dice in TV in catalano: è stata una pagina vergognosa della storia della nazione. Fra Spagna e Catalogna la rottura è insanabile. Non è più solo un fatto interno, scrive Concita De Gregorio, Repubblica, pagina 3. Non è più un fatto interno, è una questione europea. Chiedo alla Unione Europea di non guardare dall'altra parte. Porteremo al nostro Parlamento il risultato del referendum e agiremo in base alla legge. Ecco, questo è il primo grande problema. Cosa fa l'Europa? Non ci crederete? Non l'ha capito nessuno, tant'è vero che su ogni giornale c'è un titolo diverso. Però è il fondo di Stefanini, il colpevole silenzio dell'Europa. Sì, perché l'Europa ha fatto un comunicato. Leggiamo subito il senso nel pezzo di Marco Bresolin inviato a Bruxelles della Stampa, La Stampa pagina 4. I vertici e l'Unione non si schierano, scendono in campo i premier, Juncker e il vice e il suo vice non intervengono sulla Catalogna, i primi ministri aprono la crepa, il belga Michel, serve il dialogo. Quindi questa è l'interpretazione. Non c'è una presa di posizione netta a nome di tutta l'Unione, c'è un tentativo di attendere, di vedere che succede. Forse è comprensibile, però ancora una volta su una questione capitale l'Europa ha difficoltà. Perché dalla Scozia alle Fiandre, bellissimo questo retroscena sempre di Bresolin, il sogno è l'autonomia fiscale, l'Unione indebolita dalla minaccia del separatismo economico. E poi c'è anche una cartina. Scozia, Fiandre, Lombardia e Veneto sono indicati, Kosovo, Corsica, Paesi Bassi e poi ovviamente Catalogna. Hai capito, Roberto, che è pasticcio? Ma perché si evidenzia, con questi eventi, si evidenzia la natura strana dell'Europa, che vuole aggregare paesi che sono disgregati anche al loro interno. Quindi è un'operazione così, insomma, quasi difficile, utopistica, diciamo. Molto difficile. Allora, le letture e i suggerimenti che vi do. Bella la cronaca di Nicastro sul Corriere, pagina 3, è una paginona doppia, proiettili di gomma, cariche e oltre 800 feriti. Il premier spagnolo, è bello anche il bilancio, senti, Mariano Rajoy, aveva assicurato che non ci sarebbero state urne e ci sono state. Aveva detto che non ci sarebbero state schede e ci sono state, che non ci sarebbe stato voto e c'è stato. Allo stesso modo, però, il presidente catalano, Carles Puigdemont, aveva assicurato che il suo referendum indipendentista, dichiarato dai giudici anticostituzionale, sarebbe stato regolare, legittimo e con tutte le garanzie democratiche, questa è una sua citazione. E invece non c'erano osservatori dell'opposizione, non c'erano liste elettorali verificabili, non c'era una commissione di riscontro minimamente indipendente, non c'era neppure una cabina segreta nella maggioranza dei casi per poter votare senza essere visti. in fondo non servivano. Il voto ieri era l'espressione di una parte della Catalogna che si dibatte da anni in cerca di riconoscimento, garanzie e legittimità erano evaporate da un pezzo. Questo è molto importante, lo scontro fra due errori. Ogni protagonista, scrive ancora Nicastro, il Corriere della Sera, pagina 3, ha voluto recitare fino in fondo la parte che si è scelta. Il governo centrale del Partito Popolare, quella del guardiano dell'ordine a ogni costo. Gli indipendentisti catalani, quella delle vittime innocenti, perseguitati da un nemico che arriva dall'arido entroterra, pieno di livore e di invidia. Veramente molto bello. E l'immagine ovviamente è quella della Guardia Civile, questi UFO vestiti di nero con il casco calato che tirano il maglioncino di lana a una signora anziana, e ovviamente abbiamo visto anche tante altre immagini, ma è stata mediatica questa lotta e lo dimostra la posizione del Barcellona. La squadra del mito sovranista, Barcellona a porte chiuse, il Corriere Sala Gandolfi, pagina 3, sugli spalti la scritta democrazia, il pianto di Piquet, il capitano della squadra. E ti spiego perché è molto importante. Il Barça non è una squadra qualsiasi, sotto il franchismo era l'unico luogo dove si poteva eleggere democraticamente un presidente, l'unica bandiera in cui si poteva riconoscere un repubblicano catalano. Lo scrittore Manuel Vázquez Montalbán lo definì l'esercito disarmato della Catalogna, sempre Sara Gandolfi in questo bel pezzo che spiega la storia e i motivi sul Corriere della Sera. E ieri la squadra ha tenuto fede a quella fama acquistata negli anni. La società ha cercato di far sospendere la partita, come peraltro è avvenuto in tutti gli altri stadi della Catalogna a ogni livello. Ma la Liga, che governa la Serie A spagnola, si è opposta e ha minacciato una sanzione di 6 punti. Dirigenti, tecnici, giocatori a quel punto hanno discusso a lungo su cosa fare. La squadra più internazionale del mondo si è spaccata in due. Messi e Suarez volevano scendere in campo ed evitare la penalità. I catalani no, e solo a pochi minuti dal fischio inizio si è piegata al volere della Federazione Reale di Calcio Spagnola, braccio sportivo del potere madrilegno, che ha già minacciato di espellere il Barça dalla Liga se la Catalogna proclamerà l'indipendenza. Qua è meraviglioso perché sul piano degli immaginari collettivi tutto si mischia. Pensa, dove non è riuscita la Corte Costituzionale a ottenere il rispetto di un divieto, è riuscita la legge della Liga Spagnola. Ma di sfide di Barletta in te. Hai il dinero. C'è il dinero, ci sono i soldi, ci sono i diritti, e lì non si può rompere. La squadra però, ci racconta Sara Gandolfi, ha voluto giocare comunque a porte chiuse perché tutto il mondo si renda conto di questa anomalia. Grande pezzo, ottimo, interessante da leggere, ed è molto importante l'intervista a Oriol Junqueras. Chi è? Lo abbiamo sentito prima, è il leader di Esquerra Repubblicana, un partito di sinistra che è stato promotore di questo referendum, ed ecco che cosa racconta all'inviato del Corriere della Sera. Voterete l'indipendenza unilaterale entro 48 ore? Per la precisione, 48 ore dalla proclamazione ufficiale dei risultati. Abbiamo tutto il tempo per discutere, dialogare, far riflettere chi deve riflettere. Un proverbio latino dice «Fortiter in re, suaviter in modo». Saremo decisi nelle nostre convinzioni, ma educati nel modo di porci. E uno dei leader, Oriol Junqueras, 48 anni, sul Corriere a pagina 3, della secessione catalana. Sentite che cosa dice quando lui chiede la dichiarazione unilaterale sarebbe un trauma peggiore del referendum, e lui dice, questa è una delle spiegazioni di quello che è accaduto: da parte nostra, anche con il voto, abbiamo dimostrato la nostra grande capacità di gestione. Il PIL della Catalogna cresce il triplo rispetto al deficit. Non ci sono molte altre economie europee che possano mostrare simili risultati. Cioè, l'Europa dovrà riconoscerci perché siamo una delle locomotive economiche d'Europa. Ma il referendum resta anticostituzionale, dice Nicastro. Ci proibiscono di adottare per la Catalogna una legge di effettiva eguaglianza fra uomini e donne. Ci proibiscono di aiutare chi non ha il riscaldamento durante l'inverno. Non rispetto ai nostri deputati e i cittadini, perché sono sicuro che tanti deputati spagnoli e tanti democratici di tutto il mondo ci capiscano in queste ore drammatiche. Bene, tutto da leggere, e ancora un lampo. La catena degli errori, Aldo Cazzullo, lo scenarione di pagina 5, a peggiorare se possibile le cose contribuiscono altri tre protagonisti, il primo fin troppo chiassoso, gli altri fin troppo silenti. Il Barcellona, più che una squadra di calcio, elemento costitutivo dell'identità catalana e brand internazionale, ha contribuito a esasperare gli animi cavalcando la causa separatista e schierando ieri ai seggi i suoi uomini più significativi, dall'ex demiurgo Guardiola all'alfiere Piqué, che hanno postato sui social le loro foto sorridenti, badando più alla comunicazione che alle istituzioni. Strade in diretta e poi torniamo. Cippalippa, cippalippa. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Mattino. E ancora Luca Telese, siamo tornati in questa lunga parte quasi monografica, ma c'è anche altro, dedicata all'evento che forse cambierà la storia d'Europa. Siamo sicuri di questo, ma non sappiamo in quale direzione. E i messaggi che arrivano al 349-238-6666: Luca Telese, mi stai rubando la playlist. Sting, Merillion, Pink Floyd, U2, e non è ancora finita, caro Lou Reed, David Bowie. Siamo rocchettoni, quelli sono metallari, alla Zanzara noi siamo rocchettoni. Allora, sul giornale, l'apertura di Roberto Pellegrino da Barcellona, pagina 2, un dato che altrove è scomparso. Questo è il dato di chi ha votato, o almeno di quanti, secondo il governo catalano, hanno votato. Stravince il sì, 87%, scene da guerra civile e assalti ai seggi. Sai, Roberto, che il fatto che questo sia l'unico titolo che contiene questo dato numerico vuol dire che il voto non contava più. Hai ragione tu. La scena mediatica ha cancellato, certo, tutto il resto. È solo quello. Per ora è solo quello. Allora, la polizia catalana nel mirino, i famosi Mossos di Esquadra, non hanno eseguito gli ordini. Il giornale, pagina 3. Sei tribunali della Catalogna hanno avviato indagini sulle azioni dei Mossos di Esquadra, la polizia regionale catalana, per non aver impedito il voto del referendum sull'indipendenza come ordinato dalla Corte Europea. Sono andati di mattina, avrebbero dovuto sigillare i seggi e invece hanno passeggiato in mezzo alla folla. Sul Tempo, Enzo Raisi, sapete, un ex parlamentare di Alleanza Nazionale, ma è anche un italiano con doppia nazionalità, un voto che è servito soltanto a dividere per sempre la Spagna. E ci sono delle opinioni importanti, lo scrittore, perché gli scrittori stanno spiegando cosa accade quando scompare il sentiero del reale, solo la fantasia permette di capirlo. Allora, uno scrittore che ha vissuto il trauma britannico, l'autore di Trainspotting, schiaffo alla democrazia, Madrid prende esempio dalla Gran Bretagna. Allora, scrive e racconta Enrico Franceschini su Repubblica, pagina 7, Irving Welsh: è un terribile schiaffo alla democrazia, tutte le nazioni hanno diritto all'autodeterminazione, la sovranità deve appartenere al popolo e non a un governo con un atteggiamento imperialista che cerca di nascondersi dietro le leggi in una costituzione di stampo franchista. Anche se non è di stampo franchista, questo va detto, è una costituzione democratica. Poi vi dicevo sugli scrittori, Sepulveda sul Corriere della Sera, Sara Gandolfi sta a pagina 6. E che cosa dice Sepulveda? Anche lui è dalla parte dei catalani. Vivo in Spagna da tempo e ho potuto constatare come i settori più retrogradi della società spagnola, quella parte della popolazione con diritto di voto che appoggia senza tentennamenti la destra, abbia estratto dai vecchi resti della storia ciò che c'è di più rancido e assurdo nel nazionalismo fascista. Mentre invece Clara Sanchez, sempre sul Corriere della Sera, stessa pagina, ha un'opinione totalmente diversa. Noi, travolti da un odio primitivo, qui c'è già stata una guerra civile. Il presidente catalano, che fa appello a un'irrazionalità pericolosa di cui saranno i catalani a pagare le conseguenze peggiori, e il governo centrale non hanno saputo gestire la situazione. Con il suo atteggiamento hanno contribuito ad esacerbare gli animi invece di favorire il dialogo. I catalani vogliono il potere ad ogni costo, il premier ha dimostrato inettitudine totale. Sì, perché il resto della Spagna tifa contro la Catalogna. È una divisione che lascerà delle ferite e che potrebbe accelerare, pensate, anche l'indipendenza basca. Bisogna raccontare quello che è successo ovviamente a Marsiglia. 9 kamikaze già arrivati in Italia, ve lo leggevo sul Tempo a pagina 3. Urla, Allah è grande e uccide 2 ragazze. L'assalitore è un 30enne, già noto alle autorità per reati comuni, e l'uomo che ha compiuto l'ultimo attacco da kamikaze. Si lancia col furgone contro i poliziotti. Mone! Frodi IVA, la carta della buona fede, su norme tributi, Laura Ambrosi e Antonio Iorio. La giurisprudenza italiana ed europea salvano il soggetto che dimostra di aver agito con scrupolo e diligenza. I giudici fissano i margini di difesa quando il fisco prova che il contribuente doveva sapere. È una notizia molto importante, ovviamente ha conseguenze sulle vostre vite, sui vostri commercialisti, quindi dovete leggerlo. E su Marro su Corriere della Sera, pagina 15, e l'altra segnalazione, sia pure in questa forma succinta, di questa sezione della segna stampa importante: cartelle rottamate prolungate fino a giugno 2017. Tu, caro Roberto, che c'hai i milioni di euro di contravvenzioni, potrai allungare la sanatoria. Si aspettano 1,15 miliardi, di cui parte importante da te. Quasi oggi tutto, scade direi. La seconda rata. Quasi tutto, direi. E allora eccoci alla pagina dello sport con un grande, grandissimo. Tu sai chi è Auriemma? Adesso sì. Eccolo. Si attende il fischio dell'arbitro. Giunge adesso Mertens, il destro, alla rete, si gonfia la rete. Prova anche tu. Ce la faccio. L'uomo che ha inventato questo slang è Salvatore Auriemma. Ci aiuta oggi a commentare una giornata di campionato epica. Devi viverlo come un grande racconto. Lascia perdere che oggi il Napoli, ieri purtroppo asfaltando il mio amato Cagliari, ha conquistato la vetta con un'impresa senza precedenti. Allora partiamo da qui, Raffaele. Ah, che bello caffè. Pure a Napoli lo sanno fa. Ma che siamo tutti ubriachi stamattina? Caricetta, sì, cacciccirinello, sì, sì, sì, compagno di cella, ci dette mamma. E come commenti questo Napoli? Ah, è una squadra che l'avete vista tutti, la più bella che c'è. Meriterebbe di vincere lo scudetto, però come diceva Sarri, un mese da primi in classifica non si nega a nessuno, bisogna arrivare alla fine così. Secondo te c'è qualcosa che può impedire gli errori dell'anno scorso, la flessione? Cioè, è cambiata questa squadra nei suoi piccoli difetti fatali, sì, oltre ad essere cresciuta? È cambiata perché l'anno scorso aveva un difetto di intima supponenza, forse anche involontaria, contro le squadre di caratura inferiore. E ora non c'è più. Le affalta. Parliamo rapidamente, dacci 2 telegrammi su la crisi del Milan. Hanno speso più di tutti nel mercato, invece? Hanno speso più di tutti, ma comprando non si vince direttamente e subito. C'è bisogno di tempo. Non so se Montella, che è un ottimo allenatore, sia adatto al tipo di calciatori che hanno preso per fare questa squadra. E ora, con rispetto per i nostri ascoltatori bianconeri, quanto hai goduto ieri che stavi lì a gufare con corni e altre attrezzature scaramantiche contro la Juve a Bergamo? Ho seguito con grande attenzione la partita di sera perché sei diplomatico. Sì, perché l'Atalanta è un progetto che mi intriga molto. Ma c'era il rigore a favore della Juve? La VAR ha sbagliato. Io ho letto e riletto più volte il regolamento. Quello non è un calcio di rigore, però se il signor D'Amato, rivedendo lo schermo, lo ha visto. Cattiveria. Si era appannato per la nebbia che stava scendendo su Bergamo, probabilmente ha confermato quello che aveva deciso prima, cioè grazie. Ha confermato l'errore. Grazie a Raffaele Auriemma, ci fermiamo, GR Strade, e poi torniamo con i cani e con i gatti.